Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. Hey babe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. È il fallimento totale di quelle che il presidente, ex presidente del Consiglio Renzi, aveva definito riforme più belle del mondo. Non ne hanno portato a casa una. Andiamo a votare subito. Noi abbiamo già depositato una proposta chiamata Legali, com'è la legalizzazione del prodotto incostituzionale di Renzi. L'Italicum, applichiamolo al Senato e poniamo fine alla peggior legislatura della storia della Repubblica Italiana. Adesso ci facciamo fare la legge della Corte Costituzionale, il Parlamento può proprio riposarsi. Io credo che il Parlamento debba dare un'occhiata a questa sentenza, produrre una sua soluzione. Quando il Parlamento ha di mezzo la poltrona, lo stipendio e il vitalizio, tira avanti altri 6, 7, 8, 10 mesi. La Consulta dice che questa legge elettorale può essere applicata subito. Hashtag voto subito. Ormai parlano così i politici. Hashtag voto subito. Se non sapete cosa sia un hashtag, non è colpa vostra, cari ascoltatori. Ricordate sempre che non siete voi quelli strani. Sono loro quelli diversi, non voi. Voi vi state svegliando, state per fare colazione, state per vestire i figli, li state portando a scuola, fate le vostre incombenze, dovete andare a lavorare. Chi non ha un lavoro, ahi lui, ahi lei, deve cercare un lavoro. Ma tirate avanti, fate la vostra vita. Voi non sapete cosa sia l'Italicum, il Legalicum, non ricordate il Porcellum, magari pensate che sia un bordellum, non lo so, non lo so. Il Mattarellum. Il canguro, no, è un'altra cosa che c'è al Senato, alla Camera, il canguro, quando bisogna saltare come i canguri. Però se aprite i giornali oggi scoprirete che c'è una corsa al voto, una corsa al voto. La Corte Costituzionale ha deciso di bocciare parti importanti dell'Italicum. Abbiamo due leggi disomogenee, come si suol dire, tra Camera e Senato, per le elezioni di Camera e Senato, ma oggi, beh, per un giorno i terremotati vengono messi un po' da parte. C'è tutta la dichiarazione di voto su al voto, no, non si voti, sì, si voti, subito, tra un po'. Ci sono i vitalizi, no, questo non lo dice nessuno, magari lo pensano, ci sono i vitalizi prima da maturare per molti deputati della prima legislatura. Questa dichiarazione però, ecco, così non la troverete proprio sui giornali, eh? Nessuno che si lancia così. Magari qualcuno lo pensa, ma magari no, fa schifo anche un vitalizio, perché? Non lo so, alle 6:34 minuti. Devo salutare subito con grande piacere, un graditissimo ritorno, Carla Rocchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come stanno gli animali? Perché ho trovato delle notizie che mi hanno un po' allarmato, soprattutto sui lupi. I lupi, beh, insomma, non l'ex ministro. È un'indecenza che non ha. 46 anni di tutela del lupo, 46 anni di atteggiamento coerente, dire minimamente civile, e adesso anche sono tutti debiti che vengono onorati. Debiti a chi? inutilmente. Perché, a chi? Beh, questa è tutta roba di referendum, cioè fate qualunque cosa purché votiate. E questo è uno di quei casi in cui si paga un prodotto che non si è avuto, perché si è pagato... Si paga per un voto che non c'è stato. Spieghiamo, perché forse il 2 febbraio, 3 febbraio, 4 febbraio si potrebbe decidere di riaprire la caccia al lupo. Il lupo. Sì, il lupo. Io non ho il coraggio di raccontarlo ai miei figli. Perché... Difatti ci vuole proprio un bel coraggio, quello di dire non succede niente se ne uccidiamo il 5%. Poi ci si lamenta del distacco enorme, incolmabile tra la politica e il paese. Ecco, dici per bene, il lupo, per non il... hai il coraggio di dirlo ai tuoi figli, però ce l'hanno questi. No, effettivamente questa cosa. Non sono uno di quelli che i cacciatori, cioè sono un po' combattuto. Che abbiamo messo il nostro Carmelo Lauricella in regia in omaggio al lupo. Senti che bello. Beh, ci sono però tutto questo si paga, tutto questo si pagherà amaramente per loro e si pagherà perché le persone sono stanche, sono stufe. In un momento come questo, con la neve che c'è, con tutto quello che c'è, non si sospende la caccia. Sono stati trovati bracconieri che con tutto quello che succede vanno a caccia in questo momento, ma saranno mica bene di testa. Va bene, Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale di Protezione Animali, l'EMPA. I lupi, si parla, no, di questo non si parla, ma voglio salutare però, lo voglio salutare così. Signori, ieri su Twitter, quel hashtag voto subito, è apparsa una foto di Donald Trump e Melania Trump. Sotto questa foto c'era il commento postata dal nostro onorevole Maurizio Bianconi, c'era questa dicitura: compra americano, assumi americano, ma tromba come ti pare. Maurizio Bianconi, onorevole, è impazzito! Come impazzito? Ma ridiamo un po', no? Sì, ridiamo un po'. Ma si deve sempre muovere di tutti. Ah, no, io questo sono d'accordo con lei. Con quella faccia un po' ebete, no. Tanto tromba meglio di noi. Ma chi? Il Trump? Gli Stati Uniti ha un sacco di soldi. Sembra anche che non stia facendo male, perlomeno, almeno fa quello che promette. Quello che ha promesso lo sta facendo. La faccia un po' da ebete di chi è dei due? Non ho il Trump, hai visto? Una faccia un po' da ebetone. Dai, ebetone. Però tromba come ti pare. Con quel gatto già da un test. Giusto per rimanere in tema animale, c'ha il gatto giallo in testa. Sì, però insomma, vediamo se deve sempre muovere. Allora, dai, apriamo il Parlamento. Insomma, sei ammattito, Maurizio Bianconi. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, ma... io Rocchi, ma su questa storia del lupo c'entrano anche i parlamentari? Perché qua c'è Bianconi, cioè... ci posso fare poco. Eccolo lì, subito il parlamento, ci posso fare poco. Eccolo, subito il parlamentare 9. Che alza le mani e dice sparate su di me invece che sul lupo. No, in questo realtà no. I parlamentari c'entrano meno, in questa situazione c'entra il governo. Però devo dire c'entriamo tutti, perché se tutti alziamo la voce, se tutti ci facciamo sentire, come sempre, non c'è nessuna battaglia. Dai, Bianconi, metta una di quelle belle sciarpone che mi pare che ce ne abbia una cinquantina, fiorate, e faccia una bella interrogazione, una interpellata, faccia un po' di casino in difesa dei lupi. Ma il casino posso sempre fare, perché il problema poi si riflette nei territori. Permetto che io sono d'accordo con la signora Rocchi, ma c'è un problema che tutti i territori devono risolvere e che tutte le regioni fanno orecchie da mercante perché perdono voti. Sì. C'è il problema degli allevatori e dei lupi, che è un problema che da dove si cercano i voti ha la sua importanza. È lo stesso problema, detto in maniera un po' più dilatata, dei cinghiali a Portofino. Insomma, sì, c'è un'invasione e c'è una difficoltà di convivenza. Quindi i politici locali si trovano sempre in difficoltà su questo punto. Non riescono a risolverlo. Sì, io non questo per la verità. Io non voglio, io non voglio fare classifiche tra animali, ma il cinghiale non so perché mi fa un po' meno tenerezza del lupo. Gli animali sono tutti uguali come cristiani meno i piocchi, quello è tutta un'altra cosa. Ma gli animali con le quattro zampine sono quasi tutti uguali. A me il lupo è più fiero, mi piace di più. Il cinghiale poi oggi è un mezzo maiale, non è più un cinghiale, perché sono tutta roba importata sempre per piacere ai cacciatori. Che hanno voluto questa diffusione anomala, perché i cinghiali, quelli veri, facevano un cinghialino, uno piccinino. Sì. Quel piccinino, ora questi mezzi maiali che hanno introdotto ne fanno 6, 7, 8. Ma non trovate, cari italiani, che questo sia un altro che l'Italicum, altro che il Porcellum, altro che questi sono argomenti che toccano. In certe zone, d'Italia ne parlano, si parla d'altro. Non si parla d'altro, mica sì. Per esempio. No, perché ci sono allevatori e cacciatori e la loro vita quotidiana, se lei entra in un bar di mezza montagna in tutto quello. L'Appennino sente parlare di questo. È certo. E allora veniamo all'Italicum, appunto. Carla Rocchi. No, vabbè, ma ci sono iniziative che volete fare contro questa cosa, l'iniziativa dei lupi? Abbiamo scritto al mondo, abbiamo scritto a chiunque, abbiamo scritto alla... Ma quando decidono? Quando decidono? Adesso decidono all'inizio della prossima settimana. Anch'io sapevo, ma il 2 febbraio. Ma chi lo decide? Cioè, che ministero è? Lo decide il governo, perché il ministero può anche consiglio contare, dei ma poi è la linea politica del governo. Il governo ha preso, non questo governo, ma il governo passato, che sarebbe poi più o meno la stessa cosa, ha preso degli impegni che si trova che a questo punto deve onorare, anche se questa parola onore con questo tipo di impegno fa a pugni. È stato promesso tutto a tutti qualche tempo fa, quando c'era il referendum. Tutto a tutti, e adesso arriva il momento perché lo legava al referendum, cioè votate votate sì e vi apriamo la caccia ai lupi. Facciamo fare la qualunque, si chiama la qualunque, e poi naturalmente il voto non c'è stato. Insomma, a casa mia, almeno se ci fosse una trattativa contadina, vuol direbbe il voto non c'è stato, la promessa è ritirata. No, anche questo, no? Voi non avete fatto quello che ci aspettavamo, però vi diamo lo stesso. Vediamo lo stesso i lupi. Passano all'incasso. Bianconi, se oggi va alla Camera, incroci l'ex ministro. Oggi non ci vado. E come oggi non ci vado? Oggi non ci vado, c'è da preparare. Non c'è niente di che, perché sono finte. Che fa? Si mette in missione finta come tutti? No, io in 25 anni tra Parlamento e Regione non ho mai fatto un giorno di missione e me ne vanto. E se ne vanta, sì. Perché sono finte. Quante sono finte queste missioni? Buona parte sono finte, però anche questo si è esagerato, perché sono le stoltizie e le stoltezze del populismo. Un capogruppo deve fare molte cose, quindi è sempre sostanzialmente in missione. Ho capito, ma c'è gente che è stata beccata in palestra, cioè c'è gente che è stata beccata a inaugurare ipermercati. Che differenza c'è tra quello e il furbetto di Nola che va, il dipendente comunale che va a giocare al gratta e vinci invece che andare a lavorare? Se è una cosa in palestra è un conto, e sull'inaugurare un supermercato è un altro, mi consenta. Anche qui bisogna un po' distinguere. Se uno va in palestra si fa i cazzi suoi, se va a inaugurare il supermercato può darsi si fa i cazzi degli acquirenti. Una cosa. Comunque la missione non va bene, è una prassi sbagliata. Io l'ho sempre, non a caso, insomma, non devo essere io a difenderla, le ripeto, in 25 anni non ne ho presa una, motivo più avanti. Vabbè, comunque, se incrocia l'ex ministro Lupi, gli dico? No, lo tranquillizzi, perché qua stiamo parlando di caccia ai lupi, ma è una cosa vera, cioè non è che pensa che magari, cioè, nel senso, i lupi quelli lui lo hanno cacciato. Appunto. Allora, era un lupo che sapeva leggere. Però adesso Bianconi, con la solita e consueta onestà, ci deve dire quanti alla Camera, alla notizia che forse si va al voto, non ce lo spieghi tecnicamente, che già mi è venuto il mal di testa leggere il giornale 5:30, quanti hanno detto minchia il vitalizio, no, dobbiamo tenere duro fino a settembre? Anche questa è una cagata reale. Ma perché? Oggi è elegantissimo. E glielo spiego io perché. Perché un interesse economico per alcuni c'è, ma non è il vitalizio. Sì, io spiego. Il vitalizio col sistema che c'è adesso, per uno che ha fatto 5 anni, è 600-700 euro al mese. E buttali via! No, sta attento. No, buttali via! O fammi fare il conto. Se invece perdi i mesi di marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, 6 o 7 o 8 mesi, perde 11.000 euro al mese. Ma chi se ne frega? Ma quelli sono 600 euro per tutta la vita. 600 euro. Sono molto meno di 110, di 11.000 per 7. Fatevi i conti. 11 per 7 è 77. Sono 80, sono 100.000 euro. Invece per pigliare 100.000 euro con quel vitalizio ci vuole 3 vite, capito? Quindi l'interesse reale è lo stipendio. Ah, lo stipendio. Vabbè, ho capito, adesso cambiamo. Non è il vitalizio, esatto. È lo stipendio. Allora, esatto. Quindi questo vale per tutti. Vero, questo vale per tutti. Questo è un interesse generale di tutti. Tutti attaccati. Perché i populisti, i qualunquisti, anticameralisti, anche dicono, si innamorano delle parole e poi... Ho capito, però allora Rocchi ci sta dicendo che qualunquismo però dice no, ma non tengo il vitalizio, tengo proprio lo stipendio, che è più grosso, e non è qualunquismo. Allora lì colpite nel segno. Eccolo lì. Bersani. Per rimanere in tema d'animali, nessun tacchino anticipa il Natale. Stare in Parlamento è una cosa che chi ci sta, specie chi ci sta ma sapendo che non ci tornerà, è un'esperienza a cui non vuole mettere fine, paradossalmente quasi al di là del dato economico. Io ho visto persone, Bianconi frequenta questo mondo, lo sa, credo che possa convenire con me. Ci sono persone che dopo aver finito l'esperienza parlamentare vivono in transatlantico per anni, pur non avendo più niente a che fare con l'esperienza parlamentare, perché quella è una droga. Per chi si droga di questo, cioè si rimane lì, si torna a stare lì, si va a leggere il giornale lì. Ma questo è la speranza magari che qualche briciola cada dal tavolo. Hai visto mai? È un'esperienza mai. Che per molti che l'hanno fatta, soprattutto per persone che non hanno un'attività che li soddisfi o qualcosa che possa essere a pari con l'esperienza parlamentare, vogliono rimanere lì. Quindi è piuttosto spiegabile che non si voglia. Certo, non è un tratto fantastico, soprattutto come sempre. Se uno dicesse no, guarda, io ci voglio rimanere qui perché sto facendo bene, voglio rimanere qui, avrebbe un senso. Invece questa cosa di il non detto, sì, no? Il non detto. È un po' così. In ogni caso, noi andiamo al traffico. Le parole chiave della legislatura che sentirete sono omogeneizzare, armonizzare, cioè far lavorare il Parlamento per mettere insieme due leggi elettorali omogenee, armonizzare, che poi fa rima con vitaliziare, stipendiare. A Milan, io voglio sentire il traffico. Scusate, ma perché non dite che è stato approvato il bilancio di Roma con l'ok di tutti in anticipo ed è la prima volta che viene approvato in anticipo il bilancio? Superstizione e titoli dei giornali, la montagna maledetta, Dio non è abruzzese, e che dire, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Al Dibba ogni cosa che dice gli cambiano le parole, e certo, gli correggono le cazzate. Onorevole Biancone, sei proprio simpatica. Noi ti vogliamo spesso alla radio di 24 mattina con Alessandro Milano, perché tu quando parla sincera, schietta. Ciao Biancone, sei simpatica, ciao. Da noi in Sud Tirolo una cosa del genere non sarebbe possibile, certo. Perché da noi il soccorso è organizzato in un modo con i vigili di fuoco, con tutti gli uomini che lavorano con il soccorso alpino, tutti preparati bene, con gli elicotteri che vanno anche di notte. Capito, Messner? Reinhold Messner dice: da noi questo non succede, ovviamente la tragedia abruzzese. Oh Bianco, vuoi sentire che ho sentito simpatico, questo è il nostro amico napoletano. Sono contento, Vabbè. Un voto in più a Napoli. È un voto in più a Napoli. Allora, che dobbiamo dire? Posso dire una cosa? Ecco, su una cosa Messner ne aveva ragione. Che quando scendono in metro di neve, i posti, gli alberghi, eccetera, non si lasciano isolati. Cioè non è che si aspetta certo, a meno che tu non abbia i mezzi, non va mai lasciato 3 metri di neve, perché quando nevica parecchio si fa subito ma sì, ma c'era detto anche ieri Mauro Corona ha detto dalle nostre parti, ma la neve non è che buttano giù 2 metri di neve di colpo, se ogni 3-4 centimetri quanto cade? 4 centimetri all'ora, 5 centimetri all'ora, e tu continui a passare logico, se hai i mezzi, se non passa nessuno poi succede quel lavoro lì. Eh sì, se hai i mezzi. Oh, però io vorrei parlare un attimo di Roma. Abbiamo due abitanti, una fissa, uno temporaneo quando si degna di andare alla Camera. Insomma, perché... Ma perché oggi non va alla Camera, Bianconi? Cioè, oggi, adesso no. Perché... Ma la Camera non è mica un bivacco, diceva bene prima, di Manipoli, no? Di Manipoli. Perché gli ex politici ce li trova oggi. Come? Non è oggi un bivacco di Manipoli? Non fanno un cazzo nulla, stanno lì a bivaccare, vanno alla mensa lì che non c'è nessuno, chiacchiericciano. Ma come? Oggi lo sapete che Bauchi c'è lì, che si vota o non si vota, che fa quello, quell'altro mi ha detto, quell'altro mi ha telefonato. Ma sì, oggi? Oggi c'è. Oggi proprio. I fancazzisti sono tutti lì. in realtà chi lavora oggi anche dei deputati lì non c'è. Ho capito, non ci sono commissioni, scusa, ma oggi è giovedì. Oggi è giovedì, non si lavora. Domani il vero fancazzista sta lì. Si è lavorato anche fino al venerdì. Perfino. È venuta così perché ieri con Joe Bacte, invece di perdere due giorni, ne ha perso mezzo. Facciamo capire, ha quindi subito. No, facciamo capire, quindi oggi è giovedì, niente, cioè lei non la regola, la regola a Milano è questa, che se noi ci si trova il martedì per votare, cioè le sezioni diciamo così corpose, sì, in cui la gente dovrebbe stare, sì, lì, il martedì, il mercoledì e il giovedì sera, fino al venerdì mattina. Ma ieri talvolta, avete fatto prima, Fino a come questa volta, sì, gli atti che c'erano e che avevano previsto lunghi tempi, come tutto il dibattito sul Jobax, sì, che lei capisce, il dibattito era stato previsto due giorni, avete è finito prima. Quindi per capire la settimana del parlamentare prima. Si va via un giorno prima, oggi niente, domani ci mancherebbe. No, io domani c'ho da fare. Domani e sabato c'ho da fare, si fonda il partito noi. Ma sabato si fonda un partito, ma chi se ne frega? Ma è stipendiato da noi. Non solo lei non se ne deve fregare, lei deve dire cos'è e lo deve votare. Ma, va bene, lo voterò. Mi rimetto sull'attenti, eccetera. Carla Rocchi, ma vogliamo dire qualcosa? Cioè, ai poveri operai che stanno andando a lavorare e Bianconi gli dice che oggi non c'è niente, ci sono solo i fancazzisti alla Camera. Domani. Ma Bianconi dice una cosa, magari non ha detto questo, però proprio questo, però almeno Bianconi ha questo tratto di verità, cioè dice le cose come sono. È ruspante, certo. E beh, insomma, è per questo che lo rende molto simpatico e credibile. E invece quello che per me non va bene è che le persone percepiscono subito, e quando si lascia immaginare che chissà cosa si sta facendo, che chissà che risultati straordinari si stanno ottenendo, e invece non è così. Ma io consiglio a tutti di farsi un giretto, perché è possibile entrare alla Camera, non è che sia impossibile, certo, farsi un giretto e sentire i discorsi in transatlantico. Di che è un'esperienza surreale, ma una volta nella vita andrebbe fatta, perché si sente parlare di tutto tranne che dei provvedimenti che devono essere votati. È un'esperienza, l'ha fatta. Va bene. In tutto questo vogliamo dare un giudizio veloce, perché manca un minuto, a Virginia Raggi, da una cittadina di Roma, Rocchi, e da un cittadino qualche volta di Roma quando lo frequenta, Bianconi. Rocchi, che dice? C'è Grillo che pare infuriato con Virginia Raggi. Insomma, è una situazione, vogliamo definirla imbarazzante? Imbarazzante. Perché è presto di mattina, è una situazione imbarazzante. E a me dispiace molto che sia così, perché questa città è veramente fiaccata. La parola esatta è fiaccata, non passano gli dettagli. Tutto quello che sappiamo, imbarazzante, e non so come ne verranno fuori. Vabbè, giudizio è secco. Pare ci sia un piano B, cioè sostituirla. Si parlava di autosospensione. Bianconi, che succede lì a Roma? È la tomba della diciamo così, del sogno del 5 Stelle diverso. E purtroppo la diversità la fanno gli uomini, non le idee, le donne in questo caso. Però devo dire che in questo momento politicamente il 5 Stelle non ne risente, perché ha il vento in poppa. Ne risentirà fra qualche mese o fra qualche anno, quando il vento non sarà più in poppa. Non sarà più in poppa. Gliela rinfacceranno molto sta cosa. E poi ha ragione da Rocchi su Roma, fortuna zero. Alemanno, Marino, Rocchi e neanche l'Inter quando andava male. vabbè, so, non parli di calcio, non mi parli di calcio oggi. No, c'era l'Inter un tanto. Oggi è andata male. Oggi quella è un'altra cosa, però sì, neanche sì, di altro. Ma come si chiama il partito nuovo? Il partito nuovo stiamo monitorando, abbiamo messo capito, lo fate domani, nome. Non sapete il nome. No, lo sapremo venerdì sera uscirà il nome dal risultato delle cose. Partito Fittiano.